Ti è mai capitato di dire di sì anche se in realtà volevi dire di no? Beh, sicuramente non sei il solo a cui è capitato. Dire di no, come abbiamo visto nel video precedente, è una cosa estremamente difficile, ma anche estremamente importante. Per quale motivo? Innanzitutto perché il nostro tempo e le nostre energie sono limitati. Immagina di avere una macchina che ha 100 km di autonomia. Comincerai ad andare 10 km di qua, 10 di là, senza pensarci, senza un progetto? Oppure prima di partire ti chiederai bene dove vuoi arrivare? A volte ci illudiamo di avere tempo ed energie illimitate, ma non è così. Per ogni sì che diciamo, il nostro tempo, le nostre energie diminuiranno. Ti è mai capitato di sentirti stanco, esaurito, bisognoso di ricaricare il tuo serbatoio interiore? Passare per quello che chiediamo pure a Federico, tanto lui di no non ce lo dirà. Oppure sì, dai, vediamo se Alessandra può, perché lei sicuramente, se hai bisogno, una mano te la dà. Beh, a lungo andare questo potrebbe farti sentire in debito di energie. Potrebbe arrivare un momento in cui proprio non ce la farai più, avrai bisogno di fermarti. Un secondo motivo collegato al primo: se hai preso una decisione, saper dire di no ti aiuta a mantenerti fermo, saldo su quella decisione. Ti aiuterà a custodire tempo ed energie per quel progetto importante. Leo Buscaglia lo affermava in altri termini, dicendo così: se non decidi della tua vita, qualcun altro deciderà per te. Sei studente e oggi hai deciso di dedicare 5 ore allo studio. Ti chiama il tuo amico e ti chiede se oggi hai voglia di fare due passi con lui. Se il tuo amico è proprio in una situazione triste, disperata, ha proprio bisogno di te, allora in quel caso potrai accantonare il tuo studio per aiutarlo. Ma se vuole semplicemente fare due passi, non sarà certo un delitto se gli dirai che no, quel tempo oggi avevi già deciso di dedicarlo allo studio. O ancora, hai deciso di dedicare 2 ore di domani alla palestra, oppure a quella relazione per te così importante con quella persona, o a quel progetto di lavoro che devi finire. Prima di dire un sì, tieni sempre presente che quel sì implicherà dei no. Perché il sì e il no sono sempre facce della medesima medaglia. Terzo, saper dire di no quando è necessario farlo ci aiuta a costruire la nostra identità, la nostra autostima, il nostro benessere interiore. C'è un momento nella vita del bambino particolarmente importante, il momento in cui impara a dire di no. E spesso questi no dei bambini assomigliano quasi ad un capriccio, ma in realtà a volte sono proprio parte di quel processo di costruzione della propria identità, della propria diversità nei confronti dell'altro. Dicendo quel no, il bambino afferma se stesso. Noi non siamo più dei bambini, non dobbiamo dire dei no come se fossero dei capricci. Ma è pur vero che se diciamo sempre, sempre, soltanto sì, beh, non potrà capitarci un po' di sentirci come degli zerbini? Se diciamo sempre di sì, non è mica detto che gli altri con questo ci rispetteranno di più. Un no, anche se intelligente e ragionato, a breve termine potrebbe farci temere di perdere di un po' di benevolenza da parte loro, ma a lungo andare però forse quello sarà proprio il tassello che ci farà rispettare ancora di più. Forse ci farebbe bene ogni tanto ripetere frasi di questo tipo: io mi voglio bene e penso alle mie esigenze, oltre che a pensare alle esigenze degli altri. Quarto motivo: possiamo dire di no perché siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Pensi che senza il tuo apporto gli altri proprio non ce la faranno? Qualcuno la chiama la sindrome del salvatore. La nostra fede ci dice che Gesù ha dato la vita per noi, per salvarci. E noi a volte pensiamo che dobbiamo necessariamente, sempre e comunque, sacrificarci per aiutare gli altri, per salvarli in un certo senso. Se a volte ti sembra di pensare che gli altri non possano fare a meno di te, ho una buona notizia: ne hanno fatto anche delle magliette splendide. Ci hanno scritto sopra così: Dio esiste, ma non sei tu. Rilassati. Quinto motivo: se noi diciamo sempre di sì, la nostra disponibilità potrebbe a volte tramutarsi in aggressività. A volte diciamo di sì, ma dentro di noi sappiamo benissimo che era meglio se avessimo detto un no. E questo magari lo sentiamo proprio a livello di pancia, sentiamo quel nodo allo stomaco. Ecco, in questi casi rischiamo che il nostro sì ci faccia diventare aggressivi. A volte in modo esplicito, attivo, a volte in modo implicito, in modo un po' più passivo. Quando siamo aggressivi in modo attivo, allora l'altro potrebbe dirci: ma scusa, ma perché mi hai detto di sì se si vede benissimo che sei arrabbiato per questo? A volte invece la nostra aggressività potrebbe esprimersi con allusioni, con mezze frasi più o meno esplicite, del tipo: è certo che con una bella giornata così rimanere in casa a mettere a posto i libri non è proprio il massimo. Oppure ogni tanto sbuffi ma senza dire nulla di preciso. Allora in quei casi non era forse meglio dire un no ragionato, intelligente, gentile? Ok, a questo punto dovresti aver capito bene sia perché a volte è così difficile dire di no, sia perché è così importante farlo. Manca soltanto un tassello. Come fare a dire di no nel modo giusto? Se non vuoi perderti il terzo video di questa sagra dei no, iscriviti subito al canale, magari anche attivando la campanella. Oppure iscriviti alla pagina Facebook. Condividi questo video se ti è piaciuto e ci vediamo al prossimo video.